Il serpente e la lima, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Vicino ad un oriolaio abitava, raccontano, un serpente, incomodo vicino certamente, che in bottega un bel dì dalla finestra per desinare entrò. Ma non trovando nulla, né cacio né minestra, a rodere una lima cominciò. «Che cosa credi, o bestia, ora di fare?» disse la lima a lui tranquillamente. «Una lima di ferro rosicchiare? O piccolo animal senza cervello, prima che tu me mangi un granello, dovrai sul ferro consumare il dente. Il tempo sol potrammi consumare». Questa è scritta per voi, spiriti gretti, che, buoni a nulla, a mordere vi date l'opere belle e gli uomini più eletti. Mordete, poco è il danno che i vostri denti fanno. La virtù, per l'invidia rosicchiante, è ferro duro, è bronzo, è diamante. Fine della favola, il serpente e la lima. Questa registrazione è di dominio pubblico.